con i suoi votanti. È la stessa cosa che succede qui, mica. Vassilios Savvas, lei è tornato a vivere ad Argos, nel Peloponneso. Dopo ho fatto studi in Italia, ho studiato architettura, dopo ho studiato anche interior design in un'università americana, però da molto tempo faccio il consulente marketing e ce l'ho anche un'agenzia che si occupa di real estate, però international real estate, vendiamo case soprattutto all'estero, anche molte al mercato italiano, diciamo case, alberghi vicino al mare, diciamo che siamo indirizzati ad una clientela internazionale per di più. E ha una famiglia, mi diceva? Mia moglie e mio figlio piccolo di 12 anni adesso. E in quale città ha studiato in Italia architettura? A Milano. Ah, a Milano, ecco. Prima a Pescara e dopo a Milano. Quindi conosce bene l'italiano anche perché ha vissuto parecchio. Certo, come no. Signor Vassilios, quando lei va al mercato, va a comprare, va a fare la spesa, porta suo figlio di 12 anni a scuola, cioè cosa riesce a capire di come stanno vivendo i suoi concittadini? Praticamente la vita è diventata molto difficile. Noi abbiamo la possibilità di vivere non nei grandi centri, dove lì praticamente si vede tutto il problema. Cioè, le cose non sono ancora molto molto difficili, anche se praticamente anche noi come famiglia abbiamo perso praticamente la metà del nostro reddito. Dobbiamo fare di nuovo i conti e cercare di risparmiare da tutte le parti. C'è anche il fatto che arrivano le tasse enormi, che praticamente ci tolgono dalle tasche quel poco che rimane dopo i vari tagli. E questo è un grosso problema. E forse è una cosa su quale chi governerà da adesso in poi la Grecia, non so dopo le elezioni chi arriverà, e dovrà vedere magari con la Troica, perché lì è il vero problema. Se non ci sono i soldi, una ripresa non è possibile che arrivi, insomma, è una cosa incredibile. I prezzi delle merci, dei prodotti, del pane, del latte, della frutta, uguali, della verdura? Sono, per dire la verità, uguali a quelli italiani. Perché questo è il grande problema. Mentre abbiamo dei prezzi, direi, piuttosto alti, ci sono questi tagli ai stipendi che praticamente non ci fanno comprare, non ci danno la possibilità di comprare le cose che compravamo prima. E dopo, oltre i tagli, come dicevo, c'è il grande problema delle tasse. E queste tasse praticamente ci fanno lasciare pochi soldi in tasca, e questa è la verità. E questo il problema si risente per di più nei grandi centri come Atene, perché chi può vivere, non so, con 500 euro, 600 euro, quanto i prezzi sono alle stelle e quanto ci sono tante tasse da pagare, dopo l'affitto, non so, un sacco di cose da pagare. E lì abbiamo proprio dei grossi problemi. Ad esempio ragazzi che non hanno, cioè non tanti, però che va a scuola senza aver mangiato niente, insomma, senza aver preso la prima colazione. Le cose che succedevano in Grecia durante il periodo, diciamo, dell'occupazione delle forze nazifasciste. Questo vuol dire che non c'è la recessione, c'è praticamente una libera caduta proprio dell'economia greca, questo è il fatto. Ma in questo momento chi ci guadagnerà, secondo me, sarà quello che ha portato i propri capitali all'estero, in Svizzera oppure in Inghilterra, e sono molti. Sono molti greci praticamente che sono diventati molto molto ricchi negli ultimi anni e hanno portato i soldi all'estero. E forse una grande parte di questa gente adesso sta pregando proprio di vedere la Grecia proprio di andare in fallimento, così quelli lì, insieme magari a molti altri da altre nazioni, verranno dopo a comprare, diciamo, tutto in Grecia a buon prezzo. Perché c'è un grande praticamente interesse di immobili, cioè di quelli che vogliono comprare immobili in Grecia, però aspettano di vedere il crollo. E quanto succederà questo? Arriveranno proprio in molti, a migliaia, a comprare case in Grecia, immobili di vario tipo, perché sanno che c'è un valore, un grande valore, diciamo, di questa terra, questo lo sanno. Era Italia in Controluce, seconda edizione. Torniamo domani alle 6:30 su Radio 24.